RAI. Noticias en la radio pública. Va ahora en onda, siempre Argentina, conexión italiana. Un programa conducido por Caritina Kosulic y Marcelo Chelo Ayala. Siempre Argentina, sur la radio pública al estero. Buonasera cari amici ascoltatori, chi vi parla Caritina Kosulic, unitamente al nostro assistente della cabina di regia, il nostro Jorge Montejo. Vi salutiamo per offrirvi il nostro programma in lingua italiana che va in onda dalle 19 alle 20 del tempo universale coordinato sulle frequenze di 9690 e 15345 kHz. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email raeitaliano@gmail.com, il nostro Facebook Conexión RAE, il nostro Twitter @ConexiónRAE e il nostro Skype Conexión.RAE. Oggi una giornata grigia a Buenos Aires, la temperatura è di 22 gradi, stamane è piovuto parecchio e per domani sono previste ancora piogge. E se Giorgio è d'accordo, noi abbiamo un'agenda fitta con le notizie locali, il panorama latinoamericano a cura di Susana Ramasso, lo sport, la musica e le notizie culturali a cura di Magdalena Arnù. Dicevo, se Giorgio è d'accordo, possiamo passare ai titoli. La causa Malvina soltanto sarà conclusa quando l'Argentina avrà il possesso definitivo delle isole. Il governo argentino risponde al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla riforma giudiziaria. Dichiarazioni del presidente dell'impresa petrolifera uruguayana rispetto all'amministrazione dell'Argentina YPF. Riunione del presidente della Camera dei Deputati dell'Argentina Julián Domínguez con il suo omologo dell'Assemblea Popolare Nazionale della Cina. Avanza il voto giovanile. Affermano che gli imprenditori dell'Argentina e del Brasile condividono obiettivi strategici. Surplus del mese di febbraio. Accordo per la prevenzione della violenza di genere e di discriminazione contro la donna. Aumenta in Argentina il numero di dispositivi per collegarsi ad internet. E ora un po' di musica, ascolterete Nocturna. Il suo autore Julián Plaza, il suo interprete Luis Salinas. Thank you. mondo ha una bacheca 100% argentina. Su Facebook, Conexión RAE. Ed ecco le notizie. La causa Malvina soltanto sarà conclusa quando l'Argentina avrà il possesso definitivo delle isole. Lo ha affermato il ministro della difesa Arturo Puricelli nel presiedere una cerimonia per il 31esimo anniversario dell'affondamento. L'incrociatore General Belgrano è stato affondato il 2 maggio 1982 durante il conflitto dell'Atlantico Sud. Puricelli ha asserito che il governo nazionale è disposto ad esaurire le risorse per far sì che il possesso definitivo delle isole Malvinas ed isole dell'Atlantico Sud ritorni al territorio nazionale. Puricelli ha manifestato che lo sforzo realizzato dall'equipaggio del General Belgrano mobilita l'Argentina affinché non vi siano mai più episodi e avversità come quelle che oggi si commemorano. L'omaggio ha avuto luogo nel Palazzo Libertad, sede della Marina Militare nella città di Buenos Aires, con la presenza di autorità militari, civili e ex membri dell'equipaggio dell'incrociatore e parenti. Ricordiamo il 2 maggio 1982 l'allora premier britannica Margaret Thatcher ordinò l'attacco alla nave argentina malgrado essa si trovasse nella zona di esclusione stabilita. Nel General Belgrano vi erano 1093 uomini, dei quali 323 sono morti. Nella maggior parte si trattava di giovani fra i 19 e i 20 anni. Il governo argentino risponde al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla riforma giudiziaria. Il Ministero degli Esteri ha informato in un comunicato che ieri, mercoledì, ha risposto agli interrogativi impostati da Gabriela Naul, relatore speciale dell'ONU, sull'indipendenza dei magistrati e degli avvocati nel mondo legati alle leggi della riforma giudiziaria che attualmente dibatte il Parlamento argentino. Il documento precisa che l'Argentina coopererà ancora una volta con le Nazioni Unite, come lo ha fatto sempre che le è stata richiesta informazione sulle diverse questioni che hanno a che fare con la vita istituzionale del Paese. Nella risposta si manifesta il profondo malessere dell'Argentina provocato dal relatore per la sua chiara parzialità nell'emettere un testo con conclusione senza aspettare le risposte che aveva richiesto all'Argentina. Il governo del nostro paese promuove una serie di progetti allo scopo della democratizzazione della giustizia. Uno di essi stabilisce l'elezione popolare dei membri del Consiglio della Magistratura, organo multisettoriale responsabile di proporre i candidati ai magistrati nazionali e federali. Controlla pure la sua attività ed impone punizioni. In una lunga risposta inviata al relatore, il governo ha precisato che compie il principio di sovranità popolare stabilito nella Costituzione. La Naul aveva chiesto si riesaminasse il progetto e quello che regola le misure cautelari ed aveva mandato venerdì al governo un questionario su certi punti di queste iniziative. Dichiarazioni del presidente dell'impresa petrolifera uruguayana rispetto all'amministrazione dell'Argentina YPF. Il presidente dell'impresa petrolifera statale uruguayana ANCAP, Raúl Sendic, ha valorizzato l'amministrazione di Miguel Galuccio, CEO di YPF, ed ha sottolineato che l'Argentina ha una grande occasione a partire dalla statizzazione dell'impresa petrolifera. Sendic ha affermato: in Uruguay vediamo con molto interesse la sfida che ha YPF ed in alcuni settori stiamo realizzando lavori congiunti. Vi sono molte possibilità di scambio e già in alcuni casi specifici, quale il programma di YPF di formazione di fornitori, perfino analizziamo alternative per applicarle in Uruguay. Per il nostro paese è importante che all'Argentina vada bene. L'unico modo che ha l'Uruguay di inserirsi nel mondo è attraverso la regione e bisogna approfittare di quella possibilità. Riunione per il presidente della Camera dei Deputati dell'Argentina, Julián Domínguez, ed il suo omologo dell'Assemblea Popolare Nazionale della Cina. Julián Domínguez si è riunito con Zhang Dejiang e con parlamentari di entrambi i paesi. Hanno concordato sul bisogno di intensificare i rapporti commerciali e nei fori internazionali per affrontare congiuntamente le sfide a livello internazionale. Le due delegazioni parlamentari hanno lavorato all'analisi dell'evento biotecnologico Intacta RR2 Pro di soia, approvato per l'uso commerciale in Argentina, Brasile e Paraguay. Hanno analizzato la crescita della produzione mineraria, specie di rame, nel nostro paese, il che risulta di grande interesse per il paese asiatico, ed i deputati argentini hanno evidenziato i vantaggi dell'evento biotecnologico in questione. Domínguez ha precisato che la delegazione argentina ha informato il titolare del Parlamento cinese il fatto che il nostro paese e tutta la regione sono in attesa dell'approvazione dell'evento biotecnologico in Cina, il che consentirebbe di aumentare del 15% la produzione argentina di cereali e piante oleose. Zhang Dejiang ha rilevato che l'Argentina si caratterizza per lo sviluppo dell'agricoltura ed è uno dei principali fornitori di prodotti agricoli della Cina e quindi occorre studiare tutte le condizioni di produzione e commercializzazione. Avanza il voto giovanile. La campagna di diffusione lanciata dal governo affinché i giovani fra i 16 e i 17 anni interessati alla possibilità di votare rinnovassero la loro carta d'identità ha ottenuto un'adesione del 60% dei giovani coinvolti, circa 740.000. Il rinnovamento della carta d'identità gli permette di partecipare alle prossime elezioni e, secondo quanto informato, la maggioranza dei giovani ha realizzato la pratica grazie alla campagna pubblicitaria diffusa dallo scorso 1 marzo attraverso la TV generalista, la TV via cavo e la radio. Lo scorso anno è stata approvata in Argentina una legge che consente il voto opzionale ai giovani dei 16 anni. Nel nostro paese il voto è obbligatorio per i cittadini fra i 18 e i 70 anni. Affermano che gli imprenditori dell'Argentina e del Brasile condividono obiettivi strategici. Il presidente dell'Unione Industriale Argentina, la cui sigla è UIA, José Ignacio de Mendiguren, ha affermato che gli imprenditori di entrambi i paesi hanno concordato sul bisogno di avanzare più velocemente nell'integrazione produttiva. In quel modo potranno avanzare nella sostituzione dei 160 miliardi di dollari di importazioni extra zona che si producono nella regione. gli industriali argentini e brasiliani hanno asserito. Oggi condividiamo la visione strategica che il mondo va verso le regioni e la regione del mondo che meno scambio commerciale ha è la nostra. De Mendiguren ha rilevato il bisogno di approfittare di un mercato con le previsioni di maggior crescita al mondo e con uno sviluppo economico di consumo con l'incorporazione di una nuova classe media. L'Argentina e il Brasile sono i principali soci del mercato comune del Sud, ovvero Mercosur, blocco composto pure dall'Uruguay, Venezuela e Paraguay, paese attualmente sospeso. Surplus del mese di febbraio 2013. Secondo quanto informato dalla Segreteria dell'Economia del Ministero dell'Economia, il surplus fiscale primario del settore pubblico nazionale è stato di 204 milioni di pesos nel mese di febbraio 2013. L'informazione precisa che nel primo bimestre dell'anno è stato accumulato un surplus primario di quasi 1 miliardo 20 milioni di pesos. Durante il secondo mese dell'anno le risorse totali sono aumentate del 34,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo incremento è dovuto principalmente alle maggiori entrate tributarie e ai contributi alla sicurezza sociale, rispecchiando il miglioramento nel livello dell'attività economica. Aumenta in Argentina il numero di dispositivi per collegarsi ad internet. Fra computer fissi, portatili, smartphones e tablets, alla fine dello scorso anno vi erano 33 milioni 300 mila apparecchi con capacità per collegarsi ad internet. Secondo la TBI Unit, l'impresa di consulenza che ha elaborato questo rapporto, quel numero rappresenta un aumento del 35% rispetto ai dati del 2011. Gli smartphone sono i principali responsabili dell'aumento del numero di apparecchi con collegamento internet. Secondo l'ultimo censimento di popolazione realizzato nel 2010, il nostro paese ha poco più di 40 milioni di abitanti. Accordo per la prevenzione della violenza di genere e di discriminazione contro la donna. Il Consiglio Provinciale delle Donne della Provincia di Buenos Aires e la Corte Suprema di Giustizia della Nazione hanno firmato un accordo quadro di cooperazione. Esso punta sulla realizzazione congiunta di attività legate alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione contro la donna. L'accordo stabilisce l'incorporazione della prospettiva di genere nel disegno delle politiche pubbliche, a partire dalla realizzazione di corsi, seminari e ricerche che possano risultare di reciproco interesse, così come pure dallo scambio di informazioni, esperienze, programmi e risorse. Il Consiglio Provinciale delle Donne porta avanti la campagna Maltrattamento Zero, Donne per la Pace, nei 135 comuni della provincia, allo scopo di rendere consapevole la società su questo flagello. Ed ora un po' di musica, ascolterete El Embrujo de mi Tierra, gli interpreti Jairo e Peteco Carabajal. Thank you. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. De los tunales, vivo rayito de luna, como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope, y un viento pasa al galope cuando la noche madura. Pero has de llevar para siempre prendida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con patios de chacarera. De miel que endulza tu rostro de arena y barro, es el viejo Nishkimayu, frescura de mis abuelos, saber y espejo del suelo de este pagón milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera una orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna, como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope, y un viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con patios de chacarera. Lontanima presenti, Chiocciola Conexión RAE, collegati via Twitter. Ed ecco lo sport. Calcio. Il Boca Juniors ha battuto 1-0 il Corinthians del Brasile nella partita di andata negli ottavi di finale dell'edizione 2013 della Coppa Libertadores di America. La partita di ritorno si giocherà mercoledì 15 nella città di San Paolo in Brasile. Tennis. Diego Schwartzman si è classificato per i quarti di finale del Challenger di Tunisia dopo aver battuto lo spagnolo Adrián Menéndez Maceiras 4-6-7-5-6-0. Il tennista argentino giocherà domani nei quarti di finale contro il vincitore della partita fra lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino argelino Lamin Quahab. Negli ottavi di finale del Challenger statunitense di Tallahassee, l'argentino Facundo Arguello affronterà oggi il locale Denis Cudia. Parliamo ora di rugby. La nazionale argentina Los Pumas esordirà contro la Nuova Zelanda, attuale campione mondiale, nell'ottava Coppa del Mondo che si giocherà in Inghilterra nel 2015. L'Argentina farà parte del gruppo C, composto da Tonga e da una squadra dell'Asia e un'altra dell'Europa. I Pumas giocheranno la prima partita domenica 20 settembre 2015 a Wembley e la seconda 5 giorni dopo contro una squadra classificata nell'eliminatoria a Gloucester. Domenica 4 ottobre affronteranno Tonga all'Ester e domenica 11 giocheranno contro una squadra africana nello stesso scenario. Da Buenos Aires sta trasmettendo la RAE il suo programma in lingua italiana che viene da sulle frequenze di 9.690 e 15.345 kHz dalle 19 alle 20 del UTC. Esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no Avete appena ascoltato il brano intitolato Memoria, composto ed interpretato dal gruppo Arbol. Lontani ma in tempo reale. Chiocciola connessione RAI. Collegati via Twitter. Informati dalla radio pubblica. RAI. Arrivano le notizie latinoamericane a cura di Susana Ramasso. Iniziamo da Cuba. Il governo ha reclamato agli Stati Uniti la chiusura del carcere di Guantanamo per considerare che esso è al margine del diritto internazionale e attenta contro i diritti umani. Il ministro degli affari esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha dichiarato alla catena Telesur: ci preoccupa il limbo verso dove va la situazione del carcere di Guantanamo, un territorio che gli Stati Uniti usurpano, dove rimangono 166 detenuti da 10 anni, senza processo né garanzie né difesa. Il cancelliere Rodríguez ha rilasciato queste dichiarazioni nella presentazione dell'esame periodico universale dei diritti umani che si realizza nella sede dell'organismo dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ONU, a Ginevra, in Svizzera. Il funzionario cubano ha rilevato che in questo carcere vi sono oltre 100 persone che fanno lo sciopero della fame, 17 di loro in pericolo di vita, alimentati per la forza attraverso la flebo. Quel carcere base militare deve essere chiuso e quel territorio restituito a Cuba. Un gruppo di esperti internazionali in diritti umani ha dichiarato a Ginevra che gli Stati Uniti devono rispettare e garantire la vita, la salute ed integrità personali dei detenuti nella base navale di Guantanamo, specialmente nel contesto dell'attuale sciopero della fame. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani, organismo con sede a Washington, ha manifestato preoccupazione per l'integrità fisica e psicologica dei detenuti in questo carcere che viola tutti gli accordi internazionali nella materia. Il relatore speciale dell'ONU sul diritto alla sanità, Anand Grover, ha precisato nel riferirsi al movimento di protesta dei carcerati che il personale della sanità non deve applicare pressioni di nessun genere su coloro che hanno scelto il ricorso estremo dello sciopero della fame. Il gruppo di esperti ha affermato che i detenuti devono essere liberati o processati in conformità con il diritto al dovuto processo e ai principi standard del diritto internazionale. Questo gruppo ha chiesto la chiusura di quel centro di detenzione. Barack Obama annuncerà nuovamente la sua volontà di chiudere questo carcere, intenzione già manifestata nel 2009. Il carcere, situato in territorio cubano sotto dominio coloniale degli Stati Uniti, è stato creato nel 2002 dal governo dell'allora presidente George Bush sotto l'argomento di rinchiudervi detenuti che avrebbero commesso presunte azioni di terrorismo. I detenuti, nella loro maggior parte, sono stati rinchiusi senza un'accusa formale e senza il dovuto processo giudiziario. Rimaniamo ancora in Cuba. Questo paese ha celebrato ieri mercoledì la sua tradizionale sfilata del 1° maggio in Piazza della Revolución de La Habana con un omaggio al defunto presidente venezuelano Hugo Chávez, considerato il miglior amico del paese. La cerimonia è stata presieduta dal presidente Raúl Castro. Chávez ha ricevuto la diagnosi di cancro pelvico a La Habana il 10 giugno 2011 e dopo un anno e 7 mesi in cui ha subito 4 interventi chirurgici e parecchie cure di chemioterapia e radioterapia è deceduto a Caracas lo scorso 5 marzo. Passiamo ora alla Bolivia. Ieri mercoledì il presidente Evo Morales ha espulso dal paese l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, ovvero USAID, nell'accusarla di una presunta ingerenza politica nei sindacati contadini ed in altre organizzazioni sociali e di cospirare contro il suo governo. Morales ha rilasciato l'annuncio nel suo discorso per la giornata dei lavoratori, dinanzi a un gruppo di lavoratori che si sono recati in piazza Murillo, a La Paz, dove si trova il palazzo presidenziale. Dopo l'annuncio ha chiesto al suo ministro degli esteri, David Choquehuanca, di informare immediatamente all'ambasciata statunitense sull'espulsione dell'USAID. L'agenzia statunitense lavora nel paese andino dal 1964, con programmi impegnati sul settore della sanità e gestione sostenibile delle risorse umane. Rispetto alla cooperazione dell'USAID, Morales ha affermato che la Bolivia è preparata per assumere il finanziamento dei progetti che promuoveva quell'agenzia statunitense. La Bolivia e gli Stati Uniti dal novembre 2008 non hanno ambasciatori a La Paz e a Washington. Brae. Uruguay, Bolivia. L'Uruguay ha riaffermato martedì il suo appoggio ad un'uscita al mare per la Bolivia attraverso il suo ministro degli esteri, Luis Almagro. La Bolivia ha perso 400 km costieri e 120.000 km quadri di superficie andati al Cile durante la guerra del Pacifico, che si è svolta dal 1879 al 1883. Nel 2011 il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato la decisione del suo paese di presentarsi dinanzi alla Corte Internazionale dell'AIA per reclamare il diritto di un'uscita sovrana al mare dinanzi all'insuccesso di un dialogo bilaterale fra La Paz e Santiago. La domanda giudiziaria è stata presentata lo scorso 24 aprile. Nel contempo, il ministro uruguaiano ha ricordato che la Bolivia ha fatto passi concreti per la sua adesione piena al mercato comune del Sud, ovvero Mercosur, composto dall'Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela e Paraguay, tuttora sospeso. Vertice iberoamericano. I ministri degli affari esteri del Brasile, Antonio Patriota, e dell'Andorra, Gilbert Saboia Sugné, hanno appoggiato la proposta che questo incontro, che finora si svolge annualmente, si realizzi ogni 2 anni. Patriota ha dichiarato lo scorso martedì a Brasilia, dopo una riunione privata con Saboia Sugné, sarebbe un modo di razionalizzare i lavori del vertice e negli anni in cui non vi sono riunioni dei capi di Stato e del Governo, vi sarebbero incontri ministeriali. Il ministro dell'Andorra, dal suo canto, ha asserito che il principale Principato accoglie favorevolmente quella proposta che si analizza nel seno della comunità iberoamericana composta dalla Spagna, Portogallo, Andorra e i paesi dell'America Latina. A capo del gruppo di riflessione per studiare la questione vi è l'ex presidente del Cile, Ricardo Lagos. In una recente visita in Brasilia, l'ex mandatario del Cile ha considerato che il prossimo appuntamento iberoamericano, che si terrà in Panama nel mese di ottobre, potrebbe essere l'ultimo che si celebri annualmente. Passiamo ora all'Uruguay e Cuba. Il presidente dell'Uruguay, José Mujica, farà la sua prima visita ufficiale nell'isola per partecipare il 26 luglio alle cerimonie del 60° anniversario della conquista della caserma Moncada. Esse si svolgeranno a Santiago de Cuba. Mujica prevede di intervistarsi con Fidel e Raúl Castro. Il viaggio comprenderà pure El Salvador, ha informato l'agenzia stampa statale argentina TELAM. L'assalto a Moncada a Santiago de Cuba è stato uno dei fulcri dell'epoca precedente alla rivoluzione cubana del 1959, quando Fidel Castro era in testa ad un gruppo di rivoluzionari che si sono ribellati contro l'allora dittatore Fulgencio Batista. E finiamo con la Colombia. Las venas abiertas de América Latina, libro scritto dall'uruguayano Eduardo Galeano, considerato un classico della saggistica attuale della regione, compare fra i libri più venduti nella Fiera del Libro di Bogotà, iniziata lo scorso 18 aprile nella capitale colombiana. Il libro, pubblicato nel 1971, affronta la storia dell'America Latina e del saccheggio delle sue risorse naturali, da parte della colonizzazione spagnola fino al XX secolo, caratterizzato dagli scontri sociali, politici ed ideologici dinanzi alla penetrazione degli Stati Uniti. Dedicata al Portogallo, la fiera si è conclusa ieri, mercoledì, con la presentazione del Perù quale ospite di onore nel 2014. Brahe. Ed ora ascoltiamo un po' di musica latinoamericana. Oggi la musica è del Messico, l'interprete il gruppo Maná e il titolo del brano En el Muelle de San Blas. Despidió a su amor, él partió en un... 7 lingue, 4 frequenze. Le onde corte hanno la sua radio. RAI, la radio pubblica all'estero. E ora parliamo di Papa Francesco, il Papa argentino che arriva sul grande schermo. La storia dell'ex arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Bergoglio, arriverà al cinema grazie al produttore e regista tedesco Christian Peschken, il quale prepara il film che sarà intitolato L'amico dei poveri, la storia di Papa Francesco. Peschken, 57enne, avrebbe ormai 25 milioni di dollari necessari per fare il film, grazie ad un gruppo di investitori europei, ha informato il National Catholic Register, secondo quanto informato lunedì 29 aprile dal portale di notizie Vatican Insider. Peschken si è messo in contatto con il noto vaticanista del giornale La Stampa, Andrea Tornielli, e con il giornalista argentino Sergio Ruin, autore del libro Il Gesuita, con una serie di interviste all'allora cardinale Bergoglio. Vi parteciperanno il regista spagnolo Antonio Quadri e l'italiano Vittorio Storaro, che si occuperà della fotografia. Secondo quanto anticipato dal regista, alcune scene saranno filmate in Argentina, però la maggior parte a Roma. «Speriamo di contare sulla benedizione del Papa», ha affermato il regista tedesco, il quale ha anticipato che la filmazione inizierà l'anno prossimo e la sua presentazione al pubblico è prevista per dicembre 2014. El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe. y celeridad. Seimila sessanta, novemila seicento novanta, undicimila settecento dieci, quindicimila trecento quarantacinque kHz. RAI, le onde corte dell'Argentina. E con l'ultima canzone che avete ascoltato, intitolata Informe della situazione, composta ed interpretata da Víctor Heredia, chi vi parla, Caritina Kosulic, insieme al nostro assistente dalla cabina di regia, Jorge Montejo, vi salutiamo, vi ringraziamo per averci accompagnato in quest'ora di trasmissione. Vi invitiamo a farlo nuovamente domani venerdì. Vi auguriamo buonanotte e buon riposo. Sette lingue. Quattro frequenze. Le onde corte hanno la sua radio. RAI, la radio pubblica all'estero. Après le flash commence, sempre Argentina. Connexion française.